si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms, o cercateci anche su Facebook, si può fare trattino radio 24, e su Twitter si può fare 24. Oggi, visto che la campagna elettorale che sta stringendo le ultime due settimane continua sostanzialmente ad ignorare i problemi concreti delle persone, tipo casa, lavoro, trasporti, oggi vogliamo darvi proprio la possibilità, voi pendolari che soffrite ogni giorno delle situazioni più terribili, di chiamare all'800 24 00 24. Facciamo una specie di sfogatoio, avremo anche un ospite che ci farà il punto su quali sono le richieste da fare ai candidati in campagna elettorale, sì, perché non si può vivere di sole tasse. 800 24 00 24, oggi è il giorno dei pendolari. Andate sul sito di Radio 24 nell'home page, partecipate al concorso ancora per un paio di settimane, ve lo rispiego. Vi chiediamo di scegliere le storie migliori che vi sono piaciute di più, che abbiamo proposto in questo primo anno di Si può fare. Chi vince avrà la possibilità di tornare in trasmissione in diretta, raccontare le evoluzioni della propria iniziativa. Agli ascoltatori, voi lettori che andate, votate, partecipate, avete la possibilità di portarvi a casa una vacanza, soggiorno sostenibile offerta da EcoTube. Dunque una bella opportunità, basta andare nell'home page del sito di Radio 24 ancora per un paio di settimane, poi vi diremo come si partecipa all'estrazione di questo soggiorno sostenibile. Quindi seguiteci anche su Facebook, su Twitter e in onda. Adesso cominciamo con qualche notizia della settimana. Prima di tutto andiamo a Bari, dove sono stati buttati giù, per fortuna, degli orridi blocchi di cemento. Io ho visto le foto, sono stati demoliti nel quartiere Iapigia, o Iapigia, non so come si pronunci, aiutatemi, in via Gentile a Bari, dove c'erano questi prefabbricati costruiti per le poste, che poi sono stati abitati dagli sfrattati del comune, e adesso gli sfrattati sono stati trasferiti in un nuovo condominio, alloggi popolari in via Archimede, e questi sono stati buttati giù. Ci faranno un parco con delle abitazioni, dei negozi, una rotatoria, insomma, via così con la riqualifica del territorio, una cosa importantissima, lo dice anche Cesare Romiti. Un lavoro l'Italia ce l'avrebbe, chiamando a raccolta anche gli italiani. Il lavoro è ricostruiamo quest'Italia, ricostruiamola fisicamente. Ecco, e ricostruiamola questa Italia, sarebbe un volano, pensate, per l'economia pazzesco, no? La riqualifica del patrimonio edilizio, del territorio, il dissesto idrogeologico, se ne parla mille volte, basterebbe mettere dei soldi pubblici su questa cosa qua, far lavorare milioni di persone, sarebbe una cosa straordinaria. Visto che parliamo di mobilità, c'è questa notiziola da Firenze, e anche qua vi chiediamo all'800 24 0024 di confermarcela: semafori intelligenti in centro, in piazza Donatello, piazza Beccaria, viale Matteotti a Firenze. Ci sono dei semafori che ti dicono la velocità che tu devi seguire per trovare il verde al prossimo semaforo. Io non l'ho mai incontrato da nessuna parte, mi sembra una cosa intelligente, vediamo se funziona. E allora chiamateci su questo. La settimana scorsa già avevamo affrontato la questione del trasporto locale, col caos che era accaduto a Napoli. Naturalmente aveva chiamato una signora che aveva accusato i napoletani di non fare il biglietto sui mezzi pubblici. Sentite cosa ci ha chiamato sulla nostra segreteria telefonica quest'altro ascoltatore. Salve, sono Antonio, chiamo da Napoli. Volevo un attimo rispondere alla signora di Cremona che in diretta aveva detto che a Napoli nessuno fa il biglietto del pullman. Credo che questo sia un grandissimo luogo comune, perché io, la mia famiglia e altri amici facciamo sempre il biglietto e facciamo da anni gli abbonamenti. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Interlocking, end up rocking, electroshocking. We're getting down. Pendolari, questi esclusi dalla campagna elettorale. Ne parliamo con Paolo Martinello, che è presidente di Altro Consumo. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, non se li fila nessuno, eppure ci sono una serie di questioni importanti, aperte, treni, traghetti, aerei e quant'altro, che voi chiedete ai candidati di prendere in considerazione. Cioè, fate qualcosa. Cosa? Beh, abbiamo scritto ai governatori, oltre che ai candidati nazionali. Sappiamo che soprattutto in materia di trasporti locali sono le regioni che hanno un ruolo cruciale, finora l'hanno giocato male. Le regioni, in particolare Lombardia e Campania, che sono state incluse in quest'ultima indagine che abbiamo fatto di soddisfazione dei pendolari, poi dirò i risultati, ovviamente molto molto pesanti, molto negativi. In queste due regioni ci sono due aree molto importanti, molto grandi, le cose stanno andando molto male per i pendolari, al netto dei problemi di prima di Natale di Trenord, ma in genere noi tra l'altro l'indagine l'abbiamo fatta prima di questa, di quella settimana nera che tutti ricordiamo. Il tasso di insoddisfazione è elevatissimo. Poi devo dire una cosa, è chiaro che l'insoddisfazione per i servizi tendenzialmente è sempre un po' alta, c'è anche un po' di qualunquismo, si esagera, però non è solo naturalmente questo, c'è un effetto reale. Poi quando i tassi di insoddisfazione raggiungono livelli che ne so, dell'80%, in certi punti c'è qualcosa, certo, che non va. No, ma è vero, però ci sono dei fatti. Prima sentivo anche la risposta del consumatore napoletano sul pagamento dei biglietti. Beh, guardate, queste indagini che noi facciamo periodicamente sui treni dei pendolari ormai da più di 10 anni, sì, ci dicono una cosa interessante. La circumvesuviana 10-15 anni fa, come potranno testimoniare i pendolari napoletani, era, non dico un'eccellenza, ma funzionava discretamente, era il tasso di soddisfazione dei passeggeri era nettamente più alto di quelli di quello dei pendolari romani. Ma che succede? Cos'è? L'usura o cosa? No, evidentemente no, le cause precise non le conosciamo, certamente c'è stata una cattiva amministrazione, c'è stato un peggioramento della gestione, forse anche qualche taglio dei fondi, ma lo stato in cui versa oggi, l'indagine ci dice che il 98% dei napoletani che usano questa linea, sì, sono insoddisfatti. 10 anni fa erano il 50%. Beh, qualcosa ci deve essere, se... non c'è solo qualunquismo, certo, c'è il fatto che effettivamente per un motivo o per l'altro le cose sono andate peggiorando. Oggi quella linea è la peggiore d'Italia ed è quella dove, ecco, ma... sono spariti gli orari, cioè non si può più neanche parlare di puntualità o no, perché proprio hanno rinunciato in partenza, sì, e a che ora passano i treni, a sapere quando partono, certo, ma perché anzi, con chi se la devono prendere dunque i cittadini, i pendolari, quando vedono che il servizio non funziona? Adesso ci sono le elezioni nazionali, siamo sempre in tempo a lanciare questo messaggio a vuoto, credo, nell'etere, però insomma ci proviamo. Ci sono responsabilità locali e anche nazionali. A me viene in mente il caso Arena Ways, quel capo stazione che ha fondato una compagnia ferroviaria che poi per i pendolari, che è stata fatta saltare praticamente da Trenitalia, certo, che poi è stata multata per questo, per abuso di posizione dominante, una vicenda incredibile, certo, completamente dimenticata. Di chi sono le responsabilità? Anche qui, ecco, qui bisogna stare attenti a non fare di tutte le erbe un fascio. Certamente ci sono responsabilità locali e nazionali, distinguiamo. Le regioni sono le proprietarie in larga misura delle società che gestiscono le reti di trasporto locali. Questo avviene in Campania, questo avviene in Lazio, questo avviene in Lombardia. Quindi le regioni, in più, le regioni sono quelle che negoziano, contrattano un po' con se stesse, potremmo dire, le condizioni di trasporto, quindi gli orari, la qualità del servizio, i margini, lo standard qualitativo, quindi la puntualità, la pulizia dei treni, il numero dei vagoni, tutte queste cose sono stabilite periodicamente in contratti che vengono fatti con le compagnie ferroviarie. Ora, un primo paradosso è evidente, in molti casi la regione negozia con se stessa, molte volte questi contratti prevedono addirittura delle penali se il servizio non viene dato secondo gli standard previsti, ma anche qua la regione multa se stessa in qualche modo, è una situazione un po' paradossale che va sicuramente spezzata. Martinello, un'ultima cosa le voglio chiedere velocemente, però, perché abbiamo citato la circumvesuviana e gli alti tassi di insoddisfazione. Un altro caso che risulta dai vostri livelli di insoddisfazione dei cittadini, in 30 secondi, così poi un numero verde per chiamare. È poco dietro nel nella classifica Roma. Degli insoddisfatti, Roma e Lazio, intendo dire, sì. Le linee che collegano Roma, che tra l'altro sono le più affollate a livello nazionale, e la Lombardia un po' meglio, ma siamo sempre con una larga maggioranza di 2/3 circa degli utenti che non sono soddisfatti. Insomma, una insoddisfazione, avete capito, bipartisan anche dal punto di vista politico, ahimè. Fai buttare la bambina, ti do 3 litri di benzina. Gallo, partita un pochettino. Gallo. E voi vi siete mai chiesti perché i ragazzi non se ne vanno da casa e vivono con i genitori? Perché non ci sono case in affitto. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace con te. In pace con te. Ecco, un altro tema che non c'è in campagna elettorale è quello degli affitti. Si parla dell'IMU, di restituire l'IMU, che naturalmente chi l'ha pagata è contento di sentirsi dire ti restituisco l'IMU, però sembra quasi una mancia, ti do sti 300 euro, ma i problemi restano, per esempio gli affitti, la mobilità sociale, come si fa a spostarsi da una città all'altra per lavorare, per studiare, la prima casa di abitazione che gli italiani ce l'hanno, non basta, ci vogliono anche altre risposte ai bisogni abitativi. Da Torino arriva un bellissimo progetto, Sharing Hotel, e ne parliamo con il presidente della società che gestisce questa cosa nuova che è nata da un anno, Lorenzo Allevi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Che cos'è? Un condominio sociale, un social housing, affitti, ma anche spazi per chi sta in questo quartiere, tra l'altro un quartiere periferico a nord di Torino. Cosa c'è adesso lì da un anno circa, no? Da un anno c'è un edificio che noi chiamiamo albergo sociale o social housing temporaneo, vuol dire che mettiamo a disposizione di lavoratori fuori sede, di ragazzi, di tutte quelle persone che hanno, come dicevate voi, delle esigenze temporanee, cioè di affitto temporaneo, degli appartamenti per un mese, 3 mesi, 6 mesi, proprio per le loro esigenze. In un anno da noi, per confermare, sì, l'esigenza di questa tipologia di appartamenti, sono transitati 6.600 persone. Ragazzi, pensate un po', non è poco, eh? E tutta questa gente sarebbe dovuto rivolgersi al mercato degli affitti, che a parte che sono per quasi 1 milione sono stati censiti, cioè censiti, non sono stati censiti, ma si calcola che siano in nero, e quindi è una perdita anche per l'erario, grossa, importante questa qua. E poi, D'accordo con lei, il tema è che le case in affitto ci sarebbero, il tema è che costano troppo e i proprietari non si fidano molto spesso, sì. Invece se noi riusciamo a offrire questo tipo di servizio, nel senso che da noi soprattutto i ragazzi, ma anche purtroppo adesso ci sono moltissimi padri divorziati, altra cosa terribile questa qua, spendono molto per sostenere la ex famiglia e quindi vengono da noi e trovano anche un modo di relazionarsi con gli altri, soprattutto durante la sera, come diceva lei, noi mettiamo a disposizione molti spazi per esempio relazionali per queste persone. Che spazi ci sono, per esempio? Io ho letto di una biblioteca, di un doposcuola. C'è una biblioteca, a parte un ristorante aperto a tutti, abbiamo anche un poliambulatorio medico per chi volesse usufruire, tutti, sì, a prezzi al di sotto del mercato, con una buona qualità. Ci sono degli spazi dove gli studenti soprattutto si trovano, degli spazi per i bambini. Cioè, ragazzi, sera, pensate un po', uno arriva in questo posto e ha il poliambulatorio, il doposcuola se ha dei figli, la biblioteca, la caffetteria, cioè puoi fare un sacco di cose senza spostarsi, condividendo con delle altre persone, sembra un sogno. Tra l'altro, pagando, credo anche di aver capito, sulla base anche del reddito, cioè è proprio un housing sociale anche da questo punto di vista, è così? Sì, è vero, non è beneficenza, nel senso che noi ai nostri utenti, ai nostri amici facciamo pagare, però sicuramente delle rette inferiori rispetto al mercato. Ad esempio da noi un monolocale per un mese costa 190 euro, decisamente inferiore rispetto agli altri posti. A Milano anche chiedono anche 500-600 euro. Sì, ma questo è proprio il nostro lavoro, dobbiamo e speriamo di aprire anche a Milano. Adesso noi siamo in contatto anche con il Comune di Milano proprio per cercare di replicare queste soluzioni. Se mi posso permettere, un'altra cosa importante che noi facciamo è che all'interno di questa struttura il nostro staff comprende 17 persone, sopra l'età media è intorno ai 33 anni. Questo permette di ravvivare questo ambiente, non è un ghetto, è assolutamente un posto dove ci si incontra. Noi per sei mesi abbiamo avuto anche 100 studenti cinesi. Ecco, questo per noi è molto importante, è un posto in cui ci si trova bene e ci forma una relazione importante, soprattutto, come dicevo prima, nelle grandi città dove manca questo tipo di relazione. Ecco, vogliamo anche dire, tra l'altro, Sharing è una realtà di cui si è occupata già Radio 24 con Smart City, un programma molto tematico su queste questioni delle città intelligenti. Chi c'è dietro dal punto di vista economico? È giusto anche dire chi ha messo i soldi per questa iniziativa, che non è di beneficenza, perché punta alla sostenibilità economica. Ci sono fondazioni bancarie e anche un fondo di investimenti e l'ente locale, no? L'ente pubblico. Certo, diciamo che l'idea di creare Sharing è venuta a un fondo italiano di venture capital sociale che si chiama Oltre Venture, la quale poi ha imbarcato in questo progetto una cooperativa sociale molto importante di Torino, che è la cooperativa DOC, e diciamo la realizzazione finanziaria è stata fatta grazie a una fondazione bancaria, che è la fondazione CRT, che non ha fatto una donazione, questa è un'altra cosa importante, ha fatto un investimento perché si aspetta che questi soldi possano ritornare per altri investimenti. Questa è la sostenibilità del progetto, che deve essere di lunga durata. E poi devo dire che l'amministrazione comunale di Torino è stata molto ed è molto vicina a questo progetto. Senta, un'altra cosa che mi sta a cuore è questa: ristrutturare, come avete fatto voi, un edificio esistente e fare un progetto così nuovo come il vostro, costa di più o di meno che costruire da zero? Perché noi vediamo solo costruire da zero, nuovi edifici, nuovi palazzi da tutte le parti, e invece vediamo poco riqualificare. La risposta in generale è che costa meno costruire da zero. Il tema dal punto di vista economico, poi c'è però il tema di sostenibilità anche ambientale, nel senso che se tu ristrutturi un edificio non consumi territorio. Certo, a forza di ricostruire prima o poi finiranno gli spazi, e in Italia si stanno già esaurendo. Quindi diciamo è un costo in più che dovrebbe sopportare forse l'ente pubblico, che però, siccome lo sappiamo, è messo male. Ecco perché poi vediamo fiorire. Però è un'osservazione giustissima quello che fa lei, nel senso che i privati possono mettere i soldi, e gli enti pubblici però possono mettere altre disponibilità che hanno. Va bene, vi verremo a trovare ancora a Sharing quando porterete avanti altri progetti, magari a Milano. So che ne avete in cantiere degli altri, lasciamoci qualcosa da raccontare la prossima volta. Grazie intanto al presidente Lorenzo Allevi. E subito qualche sms al 342-238-6666 sulla questione pendolari. Allora, a Firenze i semafori, se ci sono, quelli intelligenti non li ho visti. Un altro ascoltatore ci dice che ci sono in Svizzera dal 94, in Germania dal 94, e in Svizzera ci sono, perché non portarli anche da noi? È quello che avrebbe fatto Firenze. Vi chiedo lumi. Sei disinformato, il programma del Movimento 5 Stelle parla dei trasporti, questo probabilmente è vero, anche se poi Grillo, che è quello che fa più notizia, non parla di questo, ma parla di bombardare il Parlamento. Vabbè. 800 24 0024 in diretta tra poco, adesso a Milano. At home, sitting in my favorite nook. A girl's trying to get me eat some dinner she cooked. I'm reading a book, girl, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. On the shoulder, I got pulled over. Pigs trying to get me, roll my window lower. I'm reading a book, pig, I'm reading a book. Don't you ever interrupt me while I'm reading a book. Why all these people always interrupt? Nuovi modi di vivere insieme abbiamo sentito a Torino, ma accade anche a Milano in un altro modo particolare, con la libreria che nasce in un condominio. Mi raccomando, non smettiamo mai di leggere i libri, non affidiamoci solo al computer, che tristezza, i libri bisogna sempre sfogliarli tra le mani. Salutiamo l'ideatore che abbiamo convocato di questa iniziativa un po' particolare, Roberto Chiappella, buongiorno. Grazie, buongiorno. Come nasce questa idea, che io non avevo mai sentito? Nasce da dei libri abbandonati in una pattumiera, buttati in un cassonetto, che li ho trovati insieme a un ragazzo, ci è venuta questa piccola idea, una lampadina si è accesa e ho detto, ma perché, secondo me, a me piace molto il sociale, no? Quindi gli ho detto, ma perché non proviamo a fare un qualche cosa dentro questo condominio? Lei, tra l'altro, voglio dire questo, è un pensionato? Sì, sono un pensionato. Sì. Quindi diciamo che ha anche del tempo da dedicare a questa iniziativa, ed è un fatto comunque positivo, no? Certo. In effetti chi non si è mai trovato con gli spazi stretti e le case di oggi a dire, cavolo, ma sti libri mi avanzano, non so dove li metto, li butto, e buttarli poi ci diciamo tutti, è un crimine, è un peccato. Lei ha trovato questi libri nella pattumiera? Li ho trovati insieme a un'altra persona, abbiamo continuato questa idea qui l'abbiamo prolungata, diciamo, abbiamo voluto vedere se c'erano altre persone che erano d'accordo o meno. Pare qualcuno era d'accordo, molto d'accordo, qualcuno magari fa un po' l'indifferente, come in tutti i condomini. Poi i condomini sono un habitat incredibile. È un piccolo paese. Io ho voluto portare il paese, invece di su, portarlo in giù, fare in modo che il paese si distribuisca, diciamo così, parlare con le persone. Come funziona questa biblioteca? La biblioteca funziona in un modo normale, la chiamo biblioteca, lei la chiama libreria, io la chiamo biblioteca, e funziona come una biblioteca normale, uno viene e prende un libro, si segna quando l'ha preso, la data, quello che è, il numero di, non so se è la carta d'identità, il numero di telefono, prende il libro e quando l'ha finito lo riconsegna dopo un certo periodo. Quanti siete coinvolti in questa cosa? Siamo 72 inquilini come famiglie, circa 200 persone più di lì, insomma, giù all'incirca, più ci sono conoscenti vari in giro, che magari hanno contribuito, li portano, e questi qua onestamente dovevamo anche dare loro questa possibilità. Abbiamo un piccolo freno, che sarebbe quello di un'assemblea condominiale che dobbiamo fare adesso, e se ci danno il permesso di poter far entrare anche altre persone, naturalmente immagino già le battaglie, nell'assemblea condominiale per ottenere questa cosa. Spero di no, perché alla fine le più persone si muovono e meglio, è più sicuro. Guardi, a casa mia, nel mio condominio, non siamo riusciti nemmeno a far parcheggiare le biciclette dentro il piazzale. E noi ci siamo riusciti. Ecco, bravi. Noi no, perché c'è qualcuno sempre che per il decoro, io l'abolirei questa parola dal dizionario, Vabbè, che dire, insomma, ci lasci con un messaggio, Roberto. Nella speranza di non essere depressi, perché sappiamo che i libri vanno sempre meno di moda, credo, tra i giovani che usano i tablet, le cose. Vengono anche dei ragazzi coinvolti in questa cosa qua o sono solo gli over? Sono venuti quando abbiamo fatto l'inaugurazione, hanno fatto addirittura attraversato la città per venire a vederla. Quindi... Chi? Ma dei ragazzi venivano addirittura a Città Studi, per dire, adesso non so se uno... Ah, si era sparsa la notizia e venivano da voi? No, è che è stato un articolo che è finito su Repubblica, quindi... È quello che abbiamo visto anche noi. Bravo. Sì. Ecco, quindi il mio messaggio, voleva sapere... Sì. Il mio messaggio è che io vorrei che queste cose qui... avvenissero in qualche altro condominio e vorrei che si agganciassero anche a me per chiedermi come si fa o come non si fa, a parte che non sarà difficile. Dove la troviamo, signor Roberto? Su Facebook, io ho aperto una pagina con scritto biblioteca condominio, anzi biblioteca Rembrandt 12, non condominio, perché biblioteca è condominio, Rembrandt 12, dove da lì ci saranno delle modalità e forse riusciremo a fare dei collegamenti e vedere se riusciamo ad avere questo spazio dopo questa assemblea che dovrà deliberare questa cosa. Se riusciamo a far entrare tutti, abbiamo aperto uno spiraglio in questa società che onestamente... in bocca al lupo Roberto, mi raccomando, perché questo passaggio dell'assemblea condominiale deve essere veramente terribile. Abbiamo voluto aprire uno spiraglio. Vuole dire ancora qualcosa? Sì, posso dire un'altra cosa? Sì. Voi avete il mio numero di telefono? Io, vabbè, dai, in diretta non è non lo diciamo, però se qualcuno vuole telefonare a voi io vi do il permesso di darglielo, così. Ok, allora chiamate noi, oppure vi daremo il contatto del signor Roberto, oppure andate sulla sua pagina di Facebook, avete sentito, se volete importare questa idea della biblioteca nel condominio, insomma un messaggio così per vivere anche il condominio in un modo diverso. Arriva da Milano. due messaggi, diciamo così, di incoraggiamento al 349-238-6666. A Firenze i semafori intelligenti ci sono tra Piazza della Libertà e Piazza Beccaria, dice Adele. Forse alcuni non guardano i semafori, si riferiva all'altro che aveva detto che non c'erano. Poi un'altra da Milano, Francesca: faccio la pendolare dalla provincia a Milano dal 1987. Oddio, mi vengono i capelli bianchi solo a pensarci. In questi anni il sistema è migliorato e quindi, insomma, lei dice in termini di integrazione del sistema, di costo, qualità, eccetera. Numero di corse, beh, no, di costo, di corse. Bene, bene, bene, queste sono le piccole notizie che ci arrivano. Sonia ci chiama invece da Genova, buongiorno. Buongiorno. Per la questione pendolari? Sì. Sì, volevo soltanto dire, diciamo che in Liguria è un po' diverso rispetto, per esempio, alla Lombardia, dove effettivamente c'è un rapporto molto più stretto tra regione e azienda di trasporto, perché qui da noi invece il contratto di servizio è fatto con Trenitalia, quindi con un'azienda statale. E le cose come vanno? Bene o male? Le cose vanno abbastanza male, nel senso che abbiamo avuto negli ultimi 3 anni aumenti di un quarto praticamente del prezzo del biglietto, dell'abbonamento, anzi biglietti singoli di più, e però ci sono stati tagli di servizi. Quindi noi pensiamo invece che un'integrazione di mezzi di trasporto, ferro e gomma, sarebbe molto più auspicabile, anche per una questione economica. E comunque poi diciamo che il fatto che la regione praticamente, ahimè, si faccia imporre il contratto di servizio da parte della Trenitalia, questo è un grosso problema, che però è abbastanza diffuso, a quanto sappiamo, in tutta l'Italia, cioè praticamente spesso e volentieri, visto che le regioni non hanno le strutture per progettare, per dire quello che vogliono, praticamente è il gestore, Trenitalia in questo caso, ma anche a livello di agenzie di gomma. Sì. Va bene, Sonia, grazie per questo suo intervento. Dalla Liguria avete sentito problemi diversi da quelli della Lombardia e risultati anche diversi. Lei faceva il confronto, le cose in Liguria non vanno bene. Dovremmo avere qualche altro ascoltatore, forse, all'800240024 sulla questione dei pendolari, oggi protagonisti. Cesare da Milano, buongiorno. Buongiorno, salve. Che ci dice? Sì. No, io volevo solo lamentare una situazione che c'è praticamente si è venuta a creare nella zona a est di Milano, lungo la direttrice della Paulese, non so se la conosce, in direzione di Crema, Cremona. Sì, e che succede? Praticamente non esiste nessun mezzo di trasporto su ferro. C'è la linea 3 della metropolitana che arriva fino a San Donato, appena fuori la porta di Milano, e non viene prolungato, si promette da anni che la prolungheranno, ma poi in realtà non viene fatto. Questa è una cosa importante, ovvia, anche un bambino capisce l'importanza di prolungare le linee ferroviarie dalla città verso l'esterno, tutte le grandi città europee hanno delle reti ferroviarie pazzesche, e lei invece ci dice che c'è un tratto che si ferma, si perde. Quindi non è l'unico, No, certo, lei ci ha segnalato questo. Quanto ci mette lei a fare il tratto di strada che le compete? Con la mia macchina, adesso che hanno fatto un piccolo tratto di Paulese allargata, 2 corsie in senso di marcia, ma anche lì lasciamo cadere un velo, perché veramente hanno fatto una cosa stupidissima. Vabbè. Quanto ci mette? Io con la macchina, quando c'è traffico, anche 40 minuti per fare 10 chilometri. C'è anche chi va peggio. Grazie Cesare. Sentiamo anche Maurizio, vabbè, sempre dalla provincia di Milano. Buongiorno. Buongiorno, Maurizio di Milano, anzi da Segrate, sì, una cittadina a fianco a Milano, e volevo segnalare che i pendolari non sono solo quelli che il mezzo pubblico lo hanno, ma sono anche quelli che il mezzo pubblico non lo hanno, certo, perché magari lavorano in un cantiere dall'altra parte di Milano, per esempio Cassinetta di Lugagnano, e bisogna provare ad trovarsi in cantiere alle 7 della mattina con i mezzi pubblici. O parti il giorno prima o non arriverai mai. O dormi lì. E quindi? Direttamente. O dormi lì. Quindi, lei quanto ci mette con la sua macchina a fare il percorso, Maurizio? Ma ci puoi mettere tra l'ora e l'ora e mezza, se sei fortunato, un'ora, ecco, mediamente, per fare questi benedetti 50 chilometri. Da spararsi proprio. Da spararsi, poi la sera è da spararsi perché, che è ancora peggio. Non è come alle 6 del mattino che c'è più traffico, è ovvio. La sera non ci arrivi più. Va bene, grazie. Questo è il nostro invito ai candidati nella campagna elettorale, regionale ma anche nazionale. Parliamo anche del problema dei pendolari, mi sembra il minimo. Adesso, quanto spendiamo per l'illuminazione, anzi quanto sprechiamo per l'illuminazione pubblica? Non sono persuaso dai persuasori, no. Io seguo il ritmo dei lampioni sul lungomare del mondo. Nei bar che passano le canzoni sono tranquillo. La pioggia poi fa posto al tempo bello. Così è da sempre, sempre resterà. E tutto cambia e tutto cambierà. I lampioni sul lungomare del mondo, tutti ci siamo chiesti almeno una volta, passando di notte e vedendo delle luci accese, che siano di strade o di negozi o di edifici pubblici o privati, ma quanto cavolo si spreca la notte con questa illuminazione pubblica? Ci aveva provato il governo Monti con l'operazione Celibui a risparmiare qualcosa, non è andata in porta. Adesso c'è un progetto dell'Enea, progetto Lumière. Ne parliamo con Nicoletta Gozzo, coordinatrice di questo progetto. Buongiorno. Buongiorno a tutti. State cercando una soluzione intermedia tra lo spreco e il ritorno al Medioevo, perché qualcuno ha paura del buio. Beh, certo, noi diciamo a Progetto Lumiere ha proprio lo scopo di, in un certo senso, di promuovere l'efficienza energetica nel settore dell'illuminazione pubblica attraverso una riduzione, una razionalizzazione dei consumi di energia elettrica degli impianti diciamo atti ad illuminare le nostre strade. Ad oggi non è necessario proprio spegnere questi punti luce, l'importante sarebbe utilizzarli al meglio, utilizzando ovviamente le tecnologie che ad oggi ci sono. Sicuramente quali potrebbero essere queste tecnologie? Immagino di tipo di luci, ma anche di luci intelligenti che si accendono, si spengono. Sì, certo, ci sono un sacco di tecnologie ad hoc, ma l'effetto più importante al momento non è tanto quello di applicare queste tecnologie, quanto di gestire proprio meglio il servizio di pubblica illuminazione e quindi insegnare, aiutare le pubbliche amministrazioni a razionalizzare i loro consumi e soprattutto a gestire meglio gli impianti. Senta, questo progetto Lumière cosa prevede di concreto, no? Perché se ne fanno tanti di progetti, di annunci, si finanziano le cose, poi però a volte ci si chiede, ma come vanno a finire queste cose? Voi cosa avete in mano di concreto? Noi abbiamo, siamo partiti innanzitutto dall'analisi del settore, capire come mai in Italia, sebbene vi fossero le tecnologie per ridurre questi consumi, sebbene vi fossero le professionalità per far sì che queste tecnologie potessero essere applicate, l'illuminazione pubblica rappresenta per i comuni italiani una delle loro maggiori voci di spese. Ed è stato peraltro stimato che attraverso una gestione efficiente del settore, del servizio, si possono anche risparmiare, raggiungere dei risparmi che possono raggiungere anche il 30, 40, addirittura il 50% degli attuali consumi. Ovviamente dipende dallo stato di partenza. Anche volevo solo dire un dato, poi mi dica poi se è corretto, poi la faccio proseguire. È vero che noi spendiamo il 13% circa del costo elettrico totale per l'illuminazione pubblica? L'anno scorso noi abbiamo dati Terna, ci dicono che abbiamo speso mediamente 6,2 terawattora per la pubblica illuminazione e l'illuminazione pubblica ad oggi consuma più o meno, sempre dico sono dati così approssimativi, il 12% del totale dell'energia elettrica consumata da un comune. Quindi non è per poco. L'illuminazione, sì. E quello che stavo dicendo in merito a quello che noi stiamo cercando di fare, noi abbiamo individuato sviluppato una metodologia operativa e quindi abbiamo individuato un percorso ideale per l'efficientamento energetico del settore. Nell'ambito di questo percorso abbiamo chiamato un percorso in salita per una bolletta in discesa, perché sicuramente un percorso impegnativo sia per le pubbliche amministrazioni sia per le aziende. Cioè ci sono dei costi da affrontare, perché impegnativo? Perché in salita? Salita perché vi sono tutta una serie di step che devono essere affrontati, quali non sono, come dicevo prima, solo l'aspetto tecnologico, perché le tecnologie ci sono e possono essere applicate. Il problema è che prima di installare delle tecnologie particolarmente efficienti ed innovative bisogna comunque avere degli impianti che siano a norma e bisogna avere poi dei comuni che siano in grado di gestire questi. Però mi scusi signora Gozzo se la interrompo, ma ho capito male oppure c'è anche proprio tutto un investimento grosso da fare che potrebbe portare anche lavoro, no? Visto che si parla del fatto che manca il lavoro, no? Solo questa cosa qua non so se avete calcolato quanto potrebbe valere in miliardi di euro in PIL. Certo, adesso questi sono dei dati un po' difficili da individuare perché Ovviamente, come dicevo prima, l'investimento dipende dallo stato di partenza dell'impianto e dipende anche da che tipo di investimento uno vuole fare. Posso mettere delle tecnologie estremamente costose, posso mettere delle tecnologie che sono meno costose. L'importante è comunque che la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, volti quindi al risparmio, ma anche al miglioramento delle prestazioni funzionali, delle illuminotecniche dell'impianto, viene sicuramente ad avere un indotto economico e non solo economico. Che non è una cosa trascurabile di questi tempi. Assolutamente, anzi. No, perché ovviamente la realizzazione di un intervento di qualificazione fa sì che devono essere applicate delle tecnologie che devono il essere il problema prodotte. È che, dico solo questa cosa per gli ascoltatori, che con il patto di stabilità per quanto riguarda i comuni non possono spendere e quindi questa è una cosa che andrebbe tolta forse, cioè lasciare la possibilità ai comuni di investire, perché anche se un comune fa un mutuo per finanziare una cosa come questa di efficienza energetica è un investimento anche economico nel futuro, quindi andrebbe assolutamente incentivato. Ci vuoi raccontare, avete qualche esempio pilota, qualcosa che faccia un po' da guida di tutto questo, oppure qualche step futuro per darci ancora un po' più di concretezza prima di salutarci? No, noi stiamo realizzando dei progetti pilota, però siccome il nostro progetto in realtà fino ad oggi ha analizzato sì tutto il percorso, cioè quel percorso che è necessario e che deve essere assolutamente realizzato prima di arrivare all'intervento di riqualificazione, quindi la realizzazione del piano regolatore di illuminazione quindi comunale. Ci dovremo risentire più avanti quando invece si comincerà a spegnere qualche luce. No, sicuramente già si cominciano a spegnere le luci, però non è corretto proprio il termine spegnere le luci. No, ma stavo scherzando, dire... credo che chi ha sentito l'intervista ha capito perfettamente di cosa stiamo parlando. Io la ringrazio, ci risentiremo sicuramente più avanti, quando cominceremo. Grazie a lei, buongiorno a tutti. Come dire, allineare questi costi verso il basso risparmiando qualcosa, è una cosa importante, progetto Lumiere dell'Enea. Io ringrazio Franco Piantani della redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Giorgio De Luca in redazione in assistenza oggi, Pietro Lacorte in regia. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, buona sabato, buona giornata. Un lavoro l'Italia ce l'avrebbe, chiamando a raccolta anche gli italiani. Il lavoro è ricostruiamo quest'Italia, ricostruiamola fisicamente.